tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ondata 5 Stelle vincono 19 ballottaggi su 20, tra cui Roma e Torino. Nel PD si apre la battaglia per la guida del partito. La minoranza parla di segnale chiaro a Renzi e al governo. E anche la Lega riflette. Perde Varese in favore del centro-sinistra e non sfonda a Bologna. Salvini parlerà da Cascina in Toscana, dove il movimento ha messo a segno una vittoria piccola ma storica. Altre storie dal voto. A Benevento è sindaco Clemente Mastella. A Sesto Fiorentino sconfitto il candidato renziano. Il centrodestra si riprende Trieste. I sondaggi sul voto inglese danno in vantaggio il fronte che vuole rimanere nell'Unione Europea. I mercati reagiscono bene, si apprezza la sterlina. 'Ndrangheta in Liguria. Arresti e perquisizioni. Manette anche il sindaco di Lavagna e Gabriella Mondello, ex parlamentare di Forza Italia. Europei, oggi Russia, Galles, in campo anche l'Inghilterra, rischio hooligans per il basket. LeBron James porta al trionfo Cleveland nelle finali di NBA. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi puntata particolare, ampiamente dedicata ai ballottaggi. Non sarà in onda né America 24 né... Avremo come ogni lunedì la rubrica sugli autotrasporti e invece saremo insieme fino alle 14 interamente, e come al solito con il nostro solito schema, ossia parleremo dei temi generali, delle grandi città, ma andremo anche sui piccoli territori a raccontarvi piccole storie che, come avete sentito, arrivano dalle varie parti d'Italia e che riguardano in questo caso appunto i ballottaggi. Facciamo però prima i numeri generali. Dalla Sardegna al Piemonte, dal Veneto alla Sicilia, il secondo turno delle amministrative ha premiato il Movimento 5 Stelle. I pentastellati si sono affermati in 19 comuni sui 20, sopra i 15.000 abitanti nei quali erano candidati. In una tornata elettorale che ha visto il crollo al 55% dell'affluenza, i grillini hanno mancato il successo solo ad Alpignano, in Piemonte, dove ha vinto un candidato di una lista civica. A Roma, Virginia Raggi ha doppiato il candidato del PD, Roberto Giachetti, diventando la prima donna sindaco della capitale. A Torino, sempre una donna, Chiara Appendino, ha sfrattato il sindaco uscente del centrosinistra, Piero Fassino. Centrosinistra che ha vinto invece a Milano con Beppe Sala, a Bologna, dove ha confermato il sindaco uscente Virginio Merola, e a Varese, dove Davide Galimberti ha espugnato dopo 23 anni il fortino leghista. Conferma per il sindaco uscente Luigi De Magistris anche a Napoli, ma in questo caso il PD non partecipava neanche al ballottaggio. Trieste è passata invece al centrodestra con Roberto Di Piazza. A Benevento, nel giorno del 40° anniversario dell'ingresso in politica, ha stravinto Clemente Mastella. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Iniziamo un giro nelle reazioni dei partiti e iniziamo da qua. Da sindaco non potrò risolvere tutti i problemi, ma ascolterò tutti, perché sarò il sindaco di tutti. Questo è un momento storico fondamentale, segna una svolta. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. Chiara Appendino e Virginia Raggi, dunque, eccole le due voci delle nuove due sindache del Movimento 5 Stelle a Torino e Roma. Elisabetta Fiorito, parliamo proprio del Movimento, buongiorno. Sì, buongiorno, è un primo passo verso Palazzo Chigi, 5 Stelle leggono così la vittoria di Virginia Raggi e Chiara Appendino a Roma e Milano, dove conquistano per la prima volta il posto di sindaco due giovani donne. Ma non solo, il Movimento prende 19 dei 20 comuni al ballottaggio, un risultato storico per i 5 Stelle che puntano al governo del paese. È solo l'inizio, ora tocca a noi, dice Beppe Grillo. È un momento storico, ora parte una nuova era, dice Raggi. È giunto il nostro tempo, dobbiamo ricucire una città ferita, dice Appendino. Beppe Grillo è ancora a Roma, dove ieri è venuto a festeggiare la vittoria di Raggi Appendino. Il leader Movimento 5 Stelle risiede all'albergo alla salita del Grillo, le finestre della sua camera sono ancora chiuse, ma dalla ringhiera campeggia ancora la stampella con cui ieri sera scherzato sulla vittoria della candidata a Torino. E proprio all'hotel dove alloggia Grillo, ieri sera si sono radunati i parlamentari e collaboratori più stretti di Virginia Raggi. La festa è andata avanti fino alle 5.30 di mattina. A te, Simone. Grazie, Elisabetta Fiorito. Passiamo dall'altra parte, dalla parte del Partito Democratico. Sto già ripensando a tutto lo sforzo che dovremmo fare per far sì che ogni singola promessa elettorale diventerà realtà. Ed è la voce del neo sindaco di Milano, Beppe Sala, tra le poche consolazioni per il PD che già freme al suo interno. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, risultati contrastanti e frastagliati li definiscono da Via del Nazareno, ecco perché già venerdì prossimo ci sarà la direzione del PD chiamata ad analizzare il risultato. Sin qui, Simone, le prime conseguenze ufficiali, in realtà i ballottaggi di ieri sera consegnano un Partito Democratico in forte difficoltà e dove neanche il successo di Milano con Sala, lo abbiamo ascoltato e considerato sufficiente, fanno male. La non partita a Roma, dove si sperava invece con Giachetti di mettere in maggiore difficoltà la Raggi, e poi la debacle di Fassino a Torino, certo non fedelissimo quest'ultimo di Renzi, ma aver perso il capoluogo piemontese dopo quasi 25 anni è epocale e dà fiato alla minoranza interna. I numeri dei ballottaggi sono come pietre, attacca allora Speranza, sono difficili da minimizzare, è un risultato oggettivamente non buono per il PD, aggiunge che dà un segnale politico chiaro al governo, quindi l'affondo di Speranza, no al doppio incarico di Renzi, premier e segretario, la sconfitta è stata severa e merita risposte chiare, aggiunge Cuperlo. La replica ufficiale da Via del Nazareno e di Guerini, con le amministrative si scelgono i sindaci, la sconfitta del PD a Roma e Torino e in altri comuni non avrà conseguenza sul governo. Non mi dimetto, completerò la rottamazione, le parole di Renzi ai suoi stretti collaboratori. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, accennavamo a Milano, c'è anche Milano nella riflessione che inevitabilmente dovrà fare la Lega. Milano, ultima frontiera per il Partito Democratico. Milano, laboratorio per il nuovo centrodestra in cerca di identità e leadership. Se la vittoria di Beppe Sala, il più renziano dei candidati PD, consegna al premier il principale scudo contro gli attacchi interni, sul fronte opposto riapre la battaglia tra alleati che sembrano subito diventare ex nei commenti sulle cause della sconfitta e i passi futuri. La rimonta permette a Stefano Parisi di dire che da Milano parte una nuova piattaforma e questa potrebbe proiettarla verso Roma, ma il segretario della Lega lo gela. Lui farà il capogruppo dell'opposizione, dice. La voce grossa di Matteo Salvini pesa però molto meno ora, dopo la perdita di Milano, dove era stato doppiato da Forza Italia, dopo il fallimento a Bologna della Borgonzoni e dopo quello ancora più simbolico di Varese, culla da sempre del Carroccio, che va ancora peggio nel sud. Così, se Salvini contesta sotto al Duomo la scelta di un candidato moderato come Parisi, è proprio questo, invece, il profilo con cui Forza Italia pensa di uscire da una convalescenza che non è solo del leader ma del partito, ripartendo da Milano appunto, proprio come anche il PD di Renzi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora nelle città, iniziamo da Torino, dove si sta svolgendo, o forse è finita, lo chiediamo direttamente a Paolo Piacenza, alla conferenza stampa di Chiara Appendino, la neosindaca. Paolo. Sì, buongiorno da Torino Simone, buongiorno agli ascoltatori. È finita poco prima delle 13 la breve conferenza stampa della neoeletta sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha parlato di vittoria storica dopo aver ribadito, come aveva già fatto ieri sera, di voler unire la città e di voler dialogare con tutti. Oggi ha anche accennato ad alcune iniziative che danno il segno della nuova consigliatura. Ha infatti annunciato che, pur senza poter decidere nulla in merito, ribadirà le ragioni del no al TAV ed è pronta a uscire dell'osservatorio sul treno ad alta velocità. Sulle nomine e sul cosiddetto sistema Torino, argomento forte della campagna elettorale dei 5 Stelle, ha annunciato che introdurrà il semestre bianco per le nomine a fine mandato del sindaco e a questo proposito ha chiesto un passo indietro di Profumo, presidente di Compagnia di San Paolo, e di Peveraro, presidente di IREN. La giunta, già sono stati indicati 9 assessori, nei prossimi giorni dovrebbero essere indicati gli altri 3, novità anche di stile, un giorno per ricevere i cittadini di tutti i componenti della giunta, una giunta al mese su Facebook. Ma sentiamo direttamente alcune parole di Chiara Appendino. La grande sfida che abbiamo e che avremo sarà di riunire questa città, e per riunire una città bisogna farlo insieme, quindi maggioranza e opposizione. Il voto ha dimostrato che c'è una città divisa in due, c'è una città che non si è sentita rappresentata da questi 5 anni di amministrazione, una città che si sente sola. Per non farla sentire sola, il resto della città dovrà abbracciarla e quindi la nostra sfida sarà proprio questo. Appendino ha detto di aver sentito Grillo brevemente, mentre ancora non ha sentito Raggi, ma lo farà a breve. È da notare che ha vinto in tutte le circoscrizioni esterne tranne che in centro, un segno anche della natura popolare di questa vittoria. E ti ringrazio, grazie al nostro Paolo Piacenza per questo aggiornamento. Ci spostiamo a Napoli, dove, come era ampiamente nelle attese, ma anche questo è un problema per il governo, ha vinto ampiamente De Magistris. Laura Viggiano ha seguito la conferenza stampa del sindaco rieletto. Laura. Sì, buongiorno. La conferenza stampa è ancora in corso. Il sindaco De Magistris ha fatto un'analisi politica approfondendo, insomma, le dichiarazioni già fatte nella notte, perché la vittoria di Napoli in realtà secondo lui non era così scontata come dicono in tanti, ed è anche una risposta all'atteggiamento del governo e del PD. Insomma, dice: abbiamo vinto nonostante abbiano tentato di farci fuori e sono stati tanti i tentativi, a cominciare dallo strappo delle funzioni. La città di Napoli ha assunto un ruolo politico, parla di un movimento popolare di liberazione. Questo è un risultato del popolo, ha detto, dell'unica città che è diventata movimento politico. Un segnale forte e chiasso perché è rumoroso. Abbiamo vinto contro tutti sostanzialmente, dice De Magistris. Abbiamo un pezzo della conferenza stampa da poter ascoltare. Questa è una nostra vittoria. Noi abbiamo governato Napoli in 5 anni in condizioni difficilissime, a tratti addirittura quasi proibitive. Perché i tentativi che sono stati messi in campo in questi 5 anni per farci fuori da un punto di vista istituzionale sono tanti, che poi meriteranno anche un racconto specifico nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L'analisi sull'astensionismo, insomma, in realtà secondo De Magistris non si tratta di una vittoria di Pirro, di una minoranza, anzi il punto è che al ballottaggio il Movimento 5 Stelle e il PD, che tra l'altro sostiene essere stato in campagna elettorale sin dal 2014, sostanzialmente sono venuti meno, hanno scelto di non andare alle urne, e dunque è per questo che lui dice è la vittoria di un movimento che sta crescendo nella città. L'impostazione di amministrazione che intende dare a questo secondo mandato De Magistris sarà quella praticamente della governance con la cittadinanza. Durante l'estate saranno convocati degli stati generali, insomma, almeno così lascia intendere il sindaco rieletto. Ribadisce che saranno gli amministratori degli ultimi, lui e la sua giunta, perché appunto dovranno essere date risposte alle persone che nei quartieri hanno problemi e che hanno riposto le loro speranze nel sindaco, che quindi dovrà risolvere dei problemi. Annuncia che appunto saranno al lavoro sin da domani. E entro settembre la stratificazione di questo programma politico condiviso con le persone, con la gente. Ti ringrazio, grazie a Laura Viggiano per questi aggiornamenti. Poi più avanti nel corso della trasmissione torneremo sulle amministrative, come si diceva, vi racconteremo anche singole storie dai territori. Lo dico anche all'ascoltatore, per così dire, preoccupato, che dice: non fate notare che a Trieste, luogo nel quale si trova la vice segretaria del PD, ha vinto il centrodestra. Arriveremo, parleremo anche col neo sindaco di Trieste, non vi preoccupate, oltre che altre piccole storie dal territorio. Parliamo di altri voti adesso, quelli in arrivo, quelli della Gran Bretagna per l'uscita dall'Unione Europea. È una giornata nella quale i mercati vanno bene, più 2,63% il FTSE MIB, solamente per darvi un'idea, e sterlina in rafforzamento sull'ipotesi che vincano i Remain, ossia quelli che vogliono rimanere nell'Unione Europea. Un quadro e un aggiornamento da Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sembra che l'ottimismo, come dire, dei mercati sia appunto per una permanenza della Gran Bretagna all'Unione Europea. Sì, questa è la, come dire, il trend che si sta avvertendo in queste ore e che ha cambiato quella che invece era la percezione della scorsa settimana. Diciamo che durante il weekend è maturata questa sensazione di un marginale ritorno del fronte, diciamo, Remain. Questo è in qualche modo probabilmente legato anche alla, come dire, all'aspetto emotivo suscitato dall'omicidio di Jo Cox, la deputata laburista che è stata assassinata da un neonazista con colpi di pistola e coltellate giovedì scorso nello Yorkshire. C'è stato un movimento certamente in questa direzione, ma non il possibile ritorno, parliamo sempre di possibile perché siamo ancora in uno scenario di testa a testa, ritorno di Remain va ascritto anche alla voce indecisi che, come si sa, negli ultimi giorni tendono a favorire il mantenimento dello status quo. Ti ringrazio, grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per questo aggiornamento. La maxi operazione contro l'Ndrangheta in Liguria. All'alba, una vasta operazione denominata I Conti di Lavagna della Polizia di Stato in Liguria ha rivelato l'esistenza di un nucleo di presunti appartenenti all'Ndrangheta calabrese, da anni residenti nella regione, attivi nel traffico illecito di rifiuti e di stupefacenti, nell'usura, oltre che nel riciclaggio di denaro sporco e conseguente intestazione fittizia di beni e società. 8 le persone arrestate, 3 sottoposte a misure cautelari, tra loro soggetti indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso. E c'è anche il sindaco della città di Lavagna, Giuseppe Sanguinetti, eletto nel 2014 con la lista civica Movimento per Lavagna, vicino al centrodestra, ora agli arresti domiciliari, e anche un consigliere comunale in carica e un ex parlamentare della zona che non svolge più alcun incarico pubblico. Le accuse: abuso di ufficio, voto di scambio e traffico illecito di influenze. Sequestrate armi e munizioni pronte all'utilizzo, come spiega il dirigente della squadra mobile di Genova, Annino Gargano. Sicuramente le armi che sono state sequestrate, tra pistole semiautomatiche a tamburo o con matricola a brasa, fucili a canne mozze e numerosi proiettili, erano ben tenuti, sia pure nascosti in un terreno in zona collinare della provincia di Genova, e potevano essere utilizzate in qualunque momento. Sigilli anche per il sito di stoccaggio di rifiuti di Lavagna. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone. Buongiorno, prima ancora degli europei, parlami di Re LeBron James. Di come abbiamo fatto mattina. Di Re LeBron James e della vittoria di Cleveland. Di come abbiamo passato la notte in bianco, ma ne valeva la pena. LeBron James e Cleveland vincono il titolo NBA, gara 7 sul campo di Golden State, che quest'anno aveva disputato la miglior stagione regolare di sempre con 73 vittorie. Si è arrivati a questa gara 7 ed è finita 93-89 per LeBron James, che ha giocato una partita straordinaria, tripla doppia, 27 punti, 11 rimbalzi, 11 assist e una stoppata che entra negli highlight di sempre. Sì, quella ci rimarrà negli occhi. Sì. Consiglio agli ascoltatori di andarsene a vedere su internet. Sai, come quei canestri di Michael Jordan in rovesciata, quelle schiacciate che sono diventate un'icona. Anche questa stoppata su Iguodala diventerà un'icona per questa vittoria. Mai nessuna squadra era riuscita a risalire dall'1-3 fino a vincere gara 7. Cleveland ce l'ha fatta. Per LeBron James, terzo anello. Per Steph Curry, che non ha giocato questi playoff nelle migliori condizioni possibili, un enorme rimpianto. Un enorme rimpianto e un'enorme delusione. Fronte europei oggi. Fronte europei, dunque, ieri sera intanto Francia e Svizzera hanno pareggiato 0-0, mentre l'Albania ha ottenuto la sua prima storica vittoria in una grande competizione internazionale, battendo 1-0 la Romania. Può sperare ancora di passare il turno come terza, ma servono diverse combinazioni favorevoli per il nostro amico Gianni De Biasi, che tra l'altro poi in tutti i convocati avremo nostro graditissimo ospite. Oggi si dipana un girone molto complicato, Inghilterra-Slovacchia e Russia-Galles. Su Russia-Galles anche grandi preoccupazioni di ordine pubblico, come non è difficile immaginare. È un girone difficile, è un girone incasinato, intricato, e che stasera, insomma, troverà sull'ultima pagina il nome non dell'assassino, ma di quelli che passeranno il turno. Allora, grazie a Carlo Genta, che ritroviamo a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, a partire dalla seconda parte della trasmissione, fino alle 14 ci occuperemo di amministrative, ma nel nostro solito modo, ossia dei grandi temi di Roma, di Milano, di Napoli, di Torino. Vi abbiamo parlato ampiamente, andiamo un po' sui territori a raccogliere qualche storia. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia, su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente dei ballottaggi, dell'ondata dei 5 Stelle, della vittoria in 19 ballottaggi su 20, tra cui Roma e Torino, delle prime reazioni del Partito Democratico nel quale si apre la battaglia per la guida. Abbiamo parlato della Lega, anch'essa, così come tutto il centrodestra, in fase di riflessione. Abbiamo parlato della Brexit, dell'Ndrangheta in Liguria, abbiamo parlato di europei. e di basket NBA, come avete sentito. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo continuando in realtà a parlare di amministrative, perché al di là delle grandi storie che avete sentito ovviamente fin da stamattina e fin da ieri sera con gli exit poll, ce ne sono molte altre che vale la pena raccontare. Una di quelle è la storia di Sesto Fiorentino. Abbiamo in linea il neo sindaco Lorenzo Falchi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. E vale la pena raccontarla perché qua il governo e il presidente del consiglio Matteo Renzi ha messo tutto quello che poteva mettere, nel senso che è arrivato là a fare il comizio di chiusura di campagna elettorale, ci ha mandato Poletti, il ministro del lavoro, ci ha mandato Orfini, ha fatto di tutto e poi lei alla fine ha vinto con il 70% delle preferenze e lei è di Sinistra Italiana. Sì, certo. Ma credo che non abbia pagato la strategia del Partito Democratico locale di affidarsi a una passerella di ministri, sottosegretari, parlamentari di ogni ordine e grado, perché i se stessi, come ogni comunità locale, è interessato al futuro della propria città e quindi a sapere quali sono le proposte e le idee. Lei dice Falchi alla gente, non gliene frega niente, soprattutto in un comune non particolarmente grande del tema nazionale, gli interessa di come gestisci la città e quindi mandare i ministri o far arrivare il Presidente del Consiglio a poco serve. Sicuramente questo, poi tra l'altro un governo e dei ministri mi sembra non stiano dando grande prova del governo del paese, quindi a maggior ragione in un momento in cui c'è uno scollamento grande tra le istanze del paese, direi della sinistra di questo paese, e invece le politiche che il governo Renzi sta portando avanti, è evidente che pensare di venire a raccontare a Sesto che tutto va bene, che il paese riparte e che ripartirà anche Sesto Fiorentino mi sembra un grande errore che hanno pagato e che hanno pagato anche una mancanza di proposte poi sul governo locale ovviamente. Senta una cosa Falchi, che cosa vuole fare da sindaco? Beh, noi abbiamo tantissime cose, abbiamo da rimboccarci le maniche su tanti aspetti. Qui a Sesto Fiorentino ci sono partite ambientali della difesa del territorio che sono state al centro della campagna elettorale. Il Partito Democratico in un fazzoletto di terreno che è la Piana Fiorentina vuole inserire un inceneritore e la nuova pista dell'aeroporto di Peretola. È evidente che quando saltano tutte le garanzie per uno sviluppo compatibile da un punto di vista ambientale, sociale. Quindi con lei niente aeroporto, niente pista dell'aeroporto? Sono battaglie molto difficili, noi abbiamo fatto un'operazione verità durante la campagna elettorale, abbiamo detto che sono battaglie molto difficili ma che noi le vogliamo fare insieme alla comunità di Sesto per difendere il nostro territorio e per proporre un modello di sviluppo diverso rispetto a quello che ci stanno proponendo, cioè solo quello delle infrastrutture fine a se stesse senza ragionare sul futuro, sullo sviluppo e sulla crescita della nostra comunità che noi vogliamo evidentemente diversa rispetto a quella che ci hanno proposto fino ad adesso. La ringrazio, grazie Lorenzo Falchi, neo sindaco di Sesto Fiorentino, le auguro una buona giornata e un buon lavoro e rimaniamo in Toscana ma ci spostiamo a Cascina, provincia di Pisa. Susanna Ceccardi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche lei neo sindaca della Lega però, ed è qua la cosa curiosa, tant'è vero che Matteo Salvini verrà là a fare la conferenza stampa, ho capito bene? Sì, oggi attendiamo il capitano alle 16 in Piazza dei Caduti a Cascina. Per il resto complessivamente non mi sembra le cose siano andate benissimo a partire da Varese, Ceccardi, no? Guardi, io mi sono concentrata tantissimo in queste ultime elezioni su Cascina. Devo dire che ho guardato un po' poco cosa è successo altrove. So che abbiamo perso e comunque... Sì. Penso che faranno una riflessione su questo. Sì, Me lo conceda oggi festeggiamo beh, il nostro. Giustamente, no, ma è perfettamente comprensibile. Senta, mi dà un'idea, una sua lettura, ovviamente, come dire, è parziale, evidente, perché lei è di una parte politica, del perché i cittadini di Cascina l'hanno scelta e forse hanno deciso più che altro, oltre ad averla scelta evidentemente, di non scegliere il PD, insomma. Di dare un segnale di discontinuità. Intanto in Toscana su 4 ballottaggi il PD ne ha persi 3, quindi questa riflessione del PD toscano sarà interessante, secondo me voleranno gli stracci nelle sedi del PD regionali e provinciali in questi giorni. Il nostro risultato è sicuramente il più eclatante. Sì, come piccola nota, già stamattina il presidente della regione Rossi ha detto che si vuole candidare alla segreteria, e questo già l'aveva annunciato a dire il vero, alla segreteria nazionale del partito per riportare a sinistra il PD, così dice, insomma, quindi sì, il presidente Rossi A conferma, come dire, a conferma no, di quel che ci diceva lei, insomma, qualche straccio già inizia a volare, prego. Sì, però anche il presidente Rossi deve fare delle riflessioni, perché il candidato che ha perso qui a Cascina non era assolutamente renziano, ma era un rossiano di ferro. Rossi è venuto a chiudere la sua campagna elettorale e non gli ha certo portato bene. Ricordiamo che l'ex sindaco Antonelli l'altra volta, 5 anni fa, fu confermato a Cascina col 67% delle preferenze, dei consensi, sì. E stavolta invece ha perso il ballottaggio con una ragazzetta leghista. Quanti anni ha lei, se non sono indiscreto, per carità, Ceccardi? Io ne ho 29, sono 29. Ragazzetta perché me l'ha detto Antonelli che era una ragazzetta. Ah, Antonelli ha detto che lei è una ragazzetta. Senta, sì. cosa vuol fare a Cascina? Mi dica una cosa che fa appena si insedia, una o due cose che fa appena si insedia. Allora, le prime cose che facciamo è chiaramente l'organizzazione della macchina comunale, la giunta e l'organizzazione del consiglio. Vabbè. La prima cosa che farò, dimostrerò di essere più democratica di quelli che la democrazia ce l'hanno soltanto nel nome, e farò istituire dal consiglio una commissione garanzia e controllo, prevista tra l'altro dal TUEL, a tutela delle minoranze. Io, siccome ho provato cosa vuol dire stare 5 anni all'opposizione, e ho provato cosa vuol dire stare... Quindi mi scusi, non a tutela delle minoranze, io pensavo una candidata leghista, a tutela delle minoranze pensavo gli immigrati, gli extracomunitari, no, intendeva le minoranze politiche. Politiche, sì. Per la trasparenza, quindi anche per il Movimento 5 Stelle, che devo dire al ballottaggio poi l'elettorato, anche se i dirigenti non si sono schierati apertamente, ma l'elettorato mi ha sostenuto e parlano i numeri. Quindi a tutela anche loro, io istituirò la commissione garanzia e controllo proprio per la massima trasparenza negli atti della giunta e del consiglio. Allora, grazie Susanna Ceccardi, neo sindaco di Cascina, per essere stata con noi. Andiamo a Vimercate, provincia di Monza e Brianza. Ci spostiamo dunque al nord. Altro ballottaggio vinto dai 5 Stelle, lo ricordiamo, sono 19 su 20. Francesco Sartini, neo sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, tutto bene, mi sembra, no? Tutto molto bene, io vi ringrazio perché ho sentito la collega di Cascina e mi ha ricordato almeno la pronuncia e la calata della mia terra nativa. Perché io... Ah già, è vero che lei è di Pontedera, non è di Vimercate, vero? Esatto, sono di Pontedera, ma diciamo per 3/4 la mia famiglia è di Vimercate, perché i miei figli sono nati tutti qua. I figli sono nati tutti là, sua moglie invece è di Pontedera anche lei. È toscana, esatto. È toscana anche lei, quindi due toscani trapiantati. Cosa fa a Vimercate? Ma sono capitato qua per lavoro, i primi tempi l'avevo presa quasi come una gitarella fuori porta, pensando di tornare. Poi in realtà la famiglia è nata qua, è cresciuta qua, l'ambiente, la città ci ha accolto molto bene, abbiamo fatto molte amicizie, abbiamo tanto bene, tanto bene che è diventato sindaco. Che cosa farà? Le prime due o tre cose che farà da sindaco? Ma guardi, stamattina ho avuto un lungo colloquio con il segretario comunale, ci sarà sicuramente da mettere mano sull'organizzazione, e questo è un problema interno, perché vogliamo rendere la struttura del comune il più efficace possibile per risolvere i piccoli problemi della città, ma soprattutto per sfruttare l'occasione per rivitalizzare il centro storico e le frazioni. Vimercate è una bella città, ricorda anche certi centri toscani, vive di vitalità del commercio del centro storico e delle occasioni di cultura che riesce a portare. Negli ultimi anni questo si è un po' perso e quindi stiamo un po' soffrendo. Abbiamo poi dei problemi, diciamo, più legati all'urbanistica, perché avevamo un ospedale all'interno del tessuto del centro cittadino che purtroppo è in disuso ormai da anni. Quindi rappresenta un problema e un'opportunità da gestire con molto equilibrio, sia per questioni legate alle difficoltà del mercato immobiliare, sia per questioni ovviamente legate ai vari appetiti che si possono scatenare intorno a questo tipo di operazioni. Allora, vedremo come andranno le cose. In bocca al lupo anche a lei e buon lavoro a Francesco Sartini, sindaco di Vimercate, provincia di Monza e Brianza, del Movimento 5 Stelle. Altre storie, piccole o un po' più grandi, dopo la pausa per la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: l'ondata 5 Stelle vincono 19 ballottaggi su 20, tra cui Roma e Torino, mentre nel PD si apre la battaglia per la guida del partito. La minoranza parla di segnale chiaro a Renzi e al governo. Anche la Lega riflette perché ha vinto Cascina in Toscana, mettendo a segno una vittoria piccola ma storica, ma ha perso Varese in favore del centro-sinistra e non ha sfondato a Bologna. A Benevento invece è sindaco Clemente Mastella, sesto fiorentino, come avete sentito è sconfitto il candidato renziano, il centrodestra si riprende Trieste e tra poco sentiremo il neo sindaco, che tra l'altro è anche l'ex sindaco, lo era stato per due mandati, di Piazza. I sondaggi sul voto inglese danno in vantaggio il fronte che vuole rimanere nell'Unione Europea, reagiscono bene i mercati. Per l'Andrangheta in Liguria arresti e perquisizioni, manette anche il sindaco di Lavagna, Gabriella Mondello, ex parlamentare di Forza Italia. Europei oggi Russia-Galles, in campo anche l'Inghilterra, rischio hooligans per il basket, LeBron James porta al trionfo Cleveland nelle finali di NBA. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, eccoci qua di nuovo per parlare, continuare a parlare di amministrative e andare un po' sui territori. Stiamo cercando di collegarci in questi minuti con Di Piazza, il neo sindaco di Trieste, appunto ha vinto il centrodestra sconfiggendo il sindaco uscente di centrosinistra, mentre il centrodestra vince anche a Pordenone con Alessandro Ciliani, eletto sindaco con quasi il 59%, terra che qualche ascoltatore ci ricordava poco fa via SMS, è la terra nella quale Friuli Venezia Giulia è presidente la vice segretaria del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, e quindi importante dal punto di vista politico. Ma intanto ci spostiamo poco più in là, a Chioggia, siamo a due passi da Venezia, anche qua a vincere è stato un candidato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Ferro, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, se l'aspettava? Ci abbiamo sempre creduto in questo risultato, ci siamo impegnati molto e l'abbiamo spuntata. L'avete spuntata alla fine, il comune di Chioggia era governato dal centro-sinistra, il candidato era il sindaco uscente, tra l'altro. Che cosa vuole fare? Lei, come prime cose da sindaco? Noi controlleremo subito il bilancio comunale e la macchina amministrativa per renderla più efficiente e più dinamica. Questo è il vostro primo obiettivo sostanzialmente. L'ha già sentito Grillo? L'ha chiamata? No. Ma lei ha rapporti con Grillo? Perché io sono curioso di capire anche questo. Cioè, si è detto che c'è stato un distacco progressivo, no, di Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle, l'ha detto anche lui. Voi lo sentite ancora, voi candidati sindaci, oppure no? Solo vagamente. Sì, diciamo che Beppe Grillo ha fatto un passo di lato. Io ho avuto modo di sentirlo nella prima fase, che mi ha fatto i complimenti nella prima fase elettorale. E adesso ancora non l'ha sentito, in sostanza. Ora no. Senta, e come giudica appunto i segnali che sono arrivati da voi, evidentemente, ma soprattutto direi da Roma e Torino? Lei Torino se l'aspettava? A Torino è stato un ottimo risultato, sì, era un buon segnale, anche lì era percepito, ma credo che fosse un stimolo per tutti la volontà di cambiamento, e così è stata sia a livello nazionale che in ambito comunale. Benissimo, allora io la ringrazio, grazie ad Alessandro Ferro, sindaco di Chioggia del Movimento 5 Stelle, nell'attesa di riuscire a collegarci, vedremo se ci riusciremo con Di Piazza, il neo sindaco di Trieste, vediamo se abbiamo pronto il servizio sui rifugiati, perché oggi è la giornata mondiale dedicata ai rifugiati e tra l'altro l'ONU ha diffuso dei nuovi dati, sentiamo. Alla fine dello scorso anno erano 65 milioni e 300 mila le persone nel mondo in fuga da guerre o persecuzioni, circa la metà dei quali bambini. La Colombia, che vive una situazione di crisi di lunga durata, è il paese con il più alto numero di sfollati interni, 6,9 milioni, mentre proviene da Siria, Afghanistan e Somalia il maggior numero di rifugiati all'estero di cui si prende cura l'Alto Commissariato dell'ONU. E proprio di Siria, ma più in generale di contrasto al traffico di esseri umani, si parla oggi al Consiglio Esteri a Lussemburgo. Estenderemo di un anno l'operazione Sofia contro gli scafisti, ha annunciato l'alto rappresentante per la politica estera europea Mogherini, e ne amplieremo i compiti. È un segnale importante di che cosa può fare l'Unione contro i trafficanti, dice. soprattutto mentre il principale partner della UE nella gestione della crisi dei migranti, ovvero la Turchia, finisce nuovamente nel mirino. L'esercito è accusato di avere sparato a una famiglia siriana che tentava di passare il confine, uccidendo 8 persone. Ankara nega, ma le associazioni umanitarie ritengono che non ci siano dubbi. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ho una correzione che mi fa notare giustamente un ascoltatore via WhatsApp al 349-238-6666. Ho fatto un errore. Ho detto che a Chioggia si presentava contro il candidato del Movimento 5 Stelle al ballottaggio Casson del Partito Democratico. Ovviamente non è, allora, innanzitutto non è quel felice Casson che conoscete, non è del Partito Democratico, ma in realtà era un candidato della Lega sostenuto dalla destra. Rimaniamo in Veneto per una storia di cronaca, in questo caso in un luogo dove è stato trovato un neonato vivo nello stesso posto. Un anno fa era stata trovata, sempre in un cassonetto, un'altra neonata. È successo di nuovo, a un anno esatto, da quando la piccola Martina era stata ritrovata da una suora in un cassonetto, sempre a Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. Stavolta è un maschietto di carnagione bianca. Il cordone ombelicale ancora attaccato, piangeva disperato, chiuso in un sacchetto. Una donna che passava di lì lo ha sentito e ha chiamato i soccorsi. Il piccolo, trasportato d'urgenza in ospedale, è in buone condizioni di salute. Secondo la legge, la madre ha 10 giorni di tempo per riprenderselo. Se non si farà viva, partiranno le pratiche per l'affidamento. In Italia una madre che voglia partorire e non riconoscere il proprio figlio può farlo in sicurezza e anonimato in qualsiasi ospedale. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, siamo riusciti a raggiungerla finalmente. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, benvenuti a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Neo sindaco di Trieste, appunto, che ha battuto l'uscente di centrosinistra, tornando alla guida della città. Quindi lei inizia nella sostanza quello che è il suo terzo mandato, pur se non consecutivo, no? Esatto. Solo in Italia abbiamo quella legge cretina che prevede i 2 mandati, pensate che in tutta Europa un sindaco eletto dal popolo può rimanere quanto vuole. In Italia, quando un sindaco dopo 10 anni ha preso in mano bene la situazione, li mandiamo a casa. Di Piazza, cosa voleva fare 30 anni da sindaco? Il mio amico Meschel, sindaco in Austria, da 30 anni sindaco, e allora se lo vota il popolo? Quindi lei sarebbe a favore di cambiare questa legge, in sostanza? No, è una legge cretina, perché per guidare una grande città e per fare veramente un cambiamento, credetemi, serve una pianificazione un po' più lunga dei 2 mandati da 5 anni. Le do un dato: Zoran Janković, sindaco di Lubiana, è sindaco da 4 mandati, quest'anno al 4º mandato. Lubiana è capitale della mobilità del verde in Europa. Le basta? Sì, mi basta, però nel senso che serve una pianificazione lunga, sì, per cambiare delle città come le nostre, che sono state un po' abbandonate per molti anni. Sì, soprattutto alcune come Trieste, appunto. No, Trieste no. Non è stata abbandonata? No, ero 10 anni sindaco, abbiamo fatto delle grandi cose, infatti la gente mi ha rivotata. L'ha rivotata. Allora, guardi, vorrei parlare con lei anche del segnale politico, perché qualche ascoltatore ci sollecita, dice, guardate che parlate di Trieste perché là ha vinto il candidato di centrodestra nella regione governata dalla vice segretaria del Partito Democratico, e vorrei capire lei come interpreta, se dà, una lettura di questo tipo, se è disposto anche a dare una lettura, se vuole, personale, cioè magari la gente molto semplicemente l'ha preferita, ritiene che lei abbia governato bene in quei precedenti 10 anni e quindi il segnale politico non c'è, oppure un misto delle due cose, ma dopo il traffico. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come si diceva, oggi una giornata un po' particolare, essendoci i ballottaggi, non c'è America 24, non c'è nemmeno autotrasporti, tutto rimandato a domani, dove la puntata del martedì sarà sostanzialmente molto simile alla puntata, appunto, che normalmente va in onda il lunedì. Ed eravamo con Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, al quale stavamo ponendo una domanda più di politica generale, per capire un attimo se anche il voto che c'è stato a Trieste può essere interpretato parzialmente come un segnale al governo, in particolare al Partito Democratico. Di Piazza. Indubbiamente le persone questa volta avevano più facilità nel votare, perché c'era un sindaco uscente e un sindaco che era già stato sindaco, per cui invece dei soliti programmi, delle solite chiacchiere, si sono confrontate gli elettori fra due persone che conoscevano, questo è uno, e hanno scelto il sottoscritto. Per quanto riguarda la Serracchiani, beh, insomma, in regione credo che abbiamo fatto abbastanza disastri, la legge sulle UTI, cioè l'eliminazione delle quattro province, abbiamo fatto 18 unità territoriali, insomma, più la legge sulla riforma sanitaria, che Dio me ne guardi, poi hanno fatto la legge sul commercio che è stata impugnata da Renzi, beh, capirà, chiedo scusa della velocità della risposta, ma è così, capirà che una legge del fatto della Serracchiani che viene impugnata da Renzi, beh, la dice lunga. Beh, sì, il segnale non è il massimo. Senta, centrodestra vince anche a Pordenone, tra l'altro. Pordenone e Cordenone. Sì. Allora Serracchiani ha detto che è contenta che ha vinto a San Vito al Tagliamento, per cui dopo aver perso il capoluogo regionale, Pordenone è una città importante, e Cordenone sia contento di San Vito. Beh, insomma, ognuno sia contento delle cose che crede. Senta, Di Piazza, mi dica una cosa, da neo sindaco ed ex sindaco, che cosa intende fare in città adesso? Quali saranno le prime mosse? Visto che immagino che la macchina amministrativa ormai la conosca a memoria e quindi non è che ha bisogno insediarsi con grande calma, verificare tutto, eccetera. Adesso in 10-15 giorni bisogna fare la giunta, bisogna intervenire immediatamente sulla macchina comunale, perché noi abbiamo ancora un retaggio austriaco per cui abbiamo le scuole materne comunali e per cui abbiamo 2650 dipendenti, bisogna mettere a posto la macchina organizzativa, questo penso di farlo entro luglio, agosto l'Italia si ferma e continueremo a mettere a posto la macchina organizzativa in maniera di essere pronti al 1° di settembre per partire con tutti i nostri programmi e con la pulizia della città. Per pulizia intendo dire sia per quanto riguarda l'imbrattamento, i muri, la sporcizia che c'è in questo momento, e noi le ricordo sempre che Trieste era prima nei miei 10 anni per 2 volte prima nella qualità della vita in Italia, cioè nel 2004, nel 2009 eravamo primi con la classifica del Sole 24 Ore, oggi siamo 35esimi con la classifica del Sole 24 Ore e 55esimi con la classifica dell'Italia Oggi. Per cui insomma qualcosa di veramente è cambiato. E dopo, naturalmente, messa a posto la macchina, bisogna ripartire anche. Abbiamo una situazione di sicurezza in città che non abbiamo mai avuto, perché Trieste è una città che... Immagino che chiederete più uomini al governo su questo. Non chiederemo niente. Cosa vuole chiedere a chi? Roma, il governo centrale non ha un euro, la regione non ha un euro, arrangiati, aiutati che il CELT aiuta, diceva qualcuno, no? Va bene, vedremo. Grazie Di Piazza per essere stato con noi. Roberto, buona giornata. Neo sindaco di Trieste. Andiamo in un posto invece dove ha vinto il Partito Democratico in una storica roccaforte della Lega, e questo posto è Varese. Il neo sindaco è Davide Galimberti del PD. Buongiorno Galimberti, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, come la interpreta la sua vittoria? Ci dà una lettura che sia anche un po' più ampia, se riusciamo, al di là di quella che è la scelta personale che sempre interviene, no, quando si vota per un sindaco? Ma sicuramente, qui siamo in una città dove per 23 anni la Lega ha governato ininterrottamente, e il motivo per cui dopo 23 anni la città, pur essendo la roccaforte della Lega, dove sono nati e cresciuti politicamente Bossi, Maroni e tanti altri, esponenti di spicco di quel partito, il motivo per cui la città ha detto basta è stata legata principalmente al fatto che in questi 23 anni non c'è stata alcuna iniziativa concreta e una buona amministrazione in grado di dare alla città quelle risposte che si aspettava. Quindi nel corso di questi anni la città ha perso opzioni. Lei non ha l'impressione, Galimberti, che a livello più generale ci sia una sorta di desiderio di novità nel paese, che si è espresso nel suo caso con la bocciatura del candidato leghista dopo 23 anni e quindi nell'elezione sua come sindaco, e dall'altra parte, per esempio, penso a Torino soprattutto, molto più che Roma dove era molto scontata, nell'elezione di candidati del Movimento 5 Stelle? Sì, questo è un elemento, e poi, visto che appunto conosco abbastanza bene la Lega, penso che la Lega possa avere più possibilità di successo dove non la conoscono che dove la conoscono, proprio per i pochi risultati che produce dal punto di vista amministrativo. Varese è stato un segnale abbastanza pesante per loro, credo. Comunque, non lo devo chiedere a lei perché è del Partito Democratico, no, naturalmente lo dirà, ma anche lo dirà per un di altro sì. Elemento che era candidato come capolista della Lega Nord, il presidente della regione, sì, come consigliere comunale. Quindi sì, anche quello è stato un elemento che ha dato un duro colpo a un partito che non è più riconosciuto come efficace neanche dove è nato e cresciuto. Galimberti, ci dice cosa vuol fare per la città? Ma io voglio le prime due o tre cose, le chiederei possibilmente qualcosa di molto concreto, che così sì, che se ci sono, c'è anche gente di Varese all'ascolto. Ho già presentato i primi 10 provvedimenti. Il primo sarà quello di riportare più polizia locale nei quartieri e nelle strade, svuotando appunto gli uffici di vigili impiegati in attività puramente amministrative, risolvere le problematiche legate all'accesso dall'autostrada attraverso ovviamente un'interlocuzione con il governo e far diventare la città di Varese una città veramente turistica, perché è una bellissima città e ha grandi opportunità in quel settore. Allora, io la ringrazio, grazie a Davide Galimberti, sindaco di Varese. Allora, le auguro buon lavoro, in bocca al lupo come a tutti quanti. Siamo quasi in chiusura, abbiamo un paio di minuti e mezzo, ma prima di chiudere, ci sono altre storie che non siamo riusciti a raccontarvi in questa trasmissione e vale la pena ricordarvi, insomma, alcune piccole storie dal territorio. Innanzitutto, iniziamo dalla zona del Milanese, dove a San Giuliano il centrodestra ha espugnato San Giuliano Milanese, una vera e propria roccaforte rossa. Marco Segala, il sindaco, dopo 70 anni di dominio del centrosinistra, di Vimercate, dove vince il Movimento 5 Stelle, vi abbiamo parlato, di Varese anche vi abbiamo parlato. Interessante anche la situazione in Umbria, ad Assisi, dove dopo 20 anni di centrodestra c'è una sindaca di centrosinistra, si tratta di Stefania Proietti. Nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, si passa dal centrosinistra al centrodestra dopo 10 anni, il sindaco è Pasqualino Piunti, i 5 Stelle vincono con Roberto Ascani a Castelfidardo. Un'ultima cosa, perché poi qualcuno ce la segnalava, insomma ci segnalava, dice, vi state dimenticando di Latina. Ovviamente non possiamo dirli tutti, sono 122 comuni che sono andati al voto, ma Latina è sicuramente importante per una serie di motivi, a partire dal fatto che al capoluogo di provincia. Comunque, Latina, dove dal 1993 vinceva il centrodestra, praticamente da dopo Tangentopoli, e anzi il centrodestra, diciamo che vinceva proprio la destra, tanto che il primo sindaco dopo il dominio della DC fu Aimone Finestra, che era un repubblichino addirittura, ha vinto una lista che si chiama Latina Bene Comune, messa insieme da un medico che si chiama Domenico Colletta, prestato alla politica. Al primo turno ha eliminato il candidato del PD, che era il consigliere regionale Enrico Forte, al ballottaggio appunto ha travolto lo sfidante Nicola Calandrini, che era la guida di una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Noi con Salvini e 3 liste civiche. Ed è tutto dunque anche per questa puntata di Effetto Giorno, che domani torna alla sua consueta formula, ovviamente con America 24 e domani anche con Autotrasporti. Ringraziamenti vanno a Roberta Frisani in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24, come sempre tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci e la nostra mappa che potete raggiungere dal nostro sito www.radio24.it. Una buona giornata da Simone Spezia.